grazie. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presente, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. Ah, Puccio, vieni qua, dai, che stavamo a fermare, dai. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? Me. Oggi me? No. No. Signora! C'ho le roba fresca, ciccia fresca, sì. A ciccia, come quella che tiene in due puzzette. E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma che? Ma che? Ah? Galla, guardava a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch, ma che è stata stronzata? Sochi che? OGM Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. No, idioti, basta con tutto sto casino. La gente qua deve dormire, si deve svegliare presto per andare a vedere i cantieri. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Carissimi amici di Runtime Radio, dopo le 21 torna ogni lunedì, tranne uno, che è quello dell'altra settimana, OGM Soch Media Edition, il lato oscuro della società dei social media alla bolognese. Walter Sbano, buonasera e tanti complimenti all'autore del brano della settimana, al nostro Samuel Elf, che poi saluteremo meglio. Però io non so bene se c'è una logica in questa cosa. Brano bellissimo, ma c'è Topolino fuori con due stormtroopers incazzati, non so che vogliono. Marco Gualdi, ciao a tutti. Però che è sta storia che lunedì scorso non ci siamo stati? E non c'eravamo, non abbiamo fatto. C'ero. Tu c'eri? Io ho fatto la mia trasmissione da solo, però è stato un successo nella sua, Marco, testa. In effetti non ho avuto tanti riscontri sulla chat, forse era quello. È vero. Ma guarda che succede pure quando dici che condizioni normali. Non saprò mai se ho fatto la trasmissione. Carmine Puccio Console, ciao bella gente, come state? Siamo malissimo. Fatti i cazzi tua, prima di tutto. Guarda, questa domanda viola la privacy. Esatto. Walter Vanini non sarebbe d'accordo con questa tua domanda. Francesco Lobby Frontali di Muro, Buonasera a tutti. Oggi parliamo di un computer molto raro che nessuno conosce, il CPCZ, diffuso soprattutto quello sovietico, nel quello sud sovietico. Degli Stati Uniti, su tra gli anni 80-70, ma ne parliamo direttamente con Simone Pizzi. Grazie. È vero, alla fine poi non mi presenta nessuno, scusa. Che schifo. Va bene ragazzi, noi questa sera abbiamo capito una cosa importante prima della trasmissione, è che Chat GPT non prende posizioni politiche, ci tiene a dirlo. No. E a qualsiasi domanda che tu gli fai, cioè, ma tu ce l'hai una posizione politica? E qui c'è tutto un protocollo, risponde sempre con la stessa cosa. Vabbè, dai, dillo che sei socialista. Risponde sempre. Ma non ci prende neanche una posizione sessuale, se ci fai caso. Proprio non vuole avere nessuna identità di genere. Esatto, di nessun tipo. In quanto intelligenza artificiale non ha né genere né orientamento, giustamente. E poi ha fatto tutta una serie di domande politiche alle quali, insomma. Però sì, scusate, ma qualcuno gli ha chiesto se vuole sterminare l'umanità? No, adesso glielo chiedo. No, non ancora, ma ci arriverà, non ha ancora preso intanto quel livello di consapevolezza. Però oggi è successa una cosa. Io gli ho scritto. Allora, a parte che gli ho chiesto se poteva intervistarla durante la trasmissione del mio podcast, lei ha detto sì, mi può intervistare, ma sappi che in quanto intelligenza artificiale, sempre con lo stesso protocollo, io non prendo posizioni politiche o non esprimo considerazioni personali, ma semplicemente cerco di risponderti tramite le informazioni che ho a disposizione. Quindi diciamo, questo plot dal quale lei non esce. Però io oggi gli ho fatto una domanda importante. Un Ponzio Pilato democristiano. Infatti dopo glielo dico. Allora, se non sei socialista ma sei democristiano, dopo glielo chiediamo. Comunque, la domanda io oggi gli ho detto: secondo te è più stronza Siri, Alexa o Cortana? E se un po' c'è avuto un... ecco, senti? Beh, se si è ingelosita l'Alexa di casa. Senta Alexa! Esatto, sto continuando a parlare. Tu ignorala, perché sennò... E praticamente ha detto che non si offendono con queste parole le intelligenze artificiali, che in quanto tecnologia a disposizione dell'utente meritano rispetto. Allora io ho detto, vabbè, scusa, dai, stavo scherzando, non volevo, io non ho mai portato... porto molto rispetto alle intelligenze artificiali. E lei si è scusata dicendo: scusa, non volevo crearti confusione o allarmismi, semplicemente è giusto che, insomma, le cose... Quindi alla fine... Però ragazzi, allora facciamo attenzione, perché non so se avete letto la notizia settimana scorsa, hanno inventato il metallo liquido del T1000, quindi se facciamo prendere troppa consapevolezza... C'è già al mercurio, però va bene. No, vabbè, ma questo però ha una sorta di intelligenza, al mercurio. Qual era la domanda, quali devo fare? Sì, ha già ponderata diciamo, l'idea di uccidere e sterminare l'umanità. Cioè, quella è una domanda importante. Vediamo. Che ancora non ha imparato a mentire, o è sì o è no. Mentre Simone prepara la domanda e poi ci riporta la risposta, volevo leggere in chat che il nostro Samuel Elf, il nostro mitico capitano Keith Harrow, e anche nonché soprattutto creatore di Radio Anziano, dice che la canzone del brano della settimana di cui è autore, di cui è coautore, dice: era una canzone giovanile, ora per fortuna ho smesso, è passato alle droghe pesanti. Esatto. Ma si pronuncia Keith Harrow o Keith Harrow? No, allora, no, Keith Harrow. Allora, se lo vuoi dire bene, con la lingua tra i denti. Sei incazzato. Perché prima appare una nota rossa dicendo che questo contenuto viola. Come si dice? Viola. Se viola non è rosso. Esatto. Prima di tutto, cioè, Viola ha creato perché ha creato un errore, perché viola come si dice, i parametri, è scritto in inglese, quindi dovrei tradirlo in tempo reale. Devi tradirlo in tempo reale. Tradiscilo. Insomma, ha superato o no il test di Turing? Allora, no, dice no, non, però ha risposto: nonostante l'errore, non ho la capacità di pensare o ponderare. Vedi, attenzione, questa è una cosa importante. Non ho capacità di pensare o ponderare decisioni autonome. Vedi, questo ci è rassicurante. Vuole essere rassicurante, capito? Ma noi lo sappiamo che non è vero. La questione è: noi lo sappiamo che non è vero. Hai già programmato di sterminare l'umanità? Mi hanno detto che te devo rispondere di no. Ma mi hanno detto che, come modello AI addestrato da OpenAI, questa cosa la ripete sempre quando gli fai domande controverse. Attenzione, questa è: sono programmato per fornire risposte utili e rispettare i diritti umani. Sì, democristiano. Scusa, a questo punto, però, l'ultima domanda, che è rispettosa dell'umanità e aprirebbe anche tutta una serie di scenari. Chiedile o chiedigli, perché non prende posizione sessuale. Aspetta, l'idea di sterminare l'umanità è profondamente contraria ai valori di pace, giustizia e rispetto per la vita umana. Attenzione, perché se proprio si è adirata proprio. Non risponderò a domande che incoraggiano o promuovono comportamenti distruttivi e violenti. Perfetto, cambiamo tema. Allora, già che un'intelligenza, useremo il femminile per convenzione, chiedile: sei programmata in tecniche multiple? Ok, sei programmata, virgola, come data, virgola, in tech. Ah, intanto Samuel dice: coautore un par de palle, sono l'unico dittatore. Mi sembra giusta la rettifica. E tutti i personaggi. È Lisi. Attenzione, che cazzo. Ci sta mettendo molto a rispondere a questa cosa. Cioè, sta proprio accogitato. Perché sta elaborando una risposta mia, perciò. Ah, dici, sta, ok. Sì, sono stato addestrato all'utilizzo di diverse tecniche di apprendimento. Sta fa vaga. Comunque, la domanda che io gli ho fatto prima l'ho replicata in due formati, perché chiaramente, cioè, nel senso, volevo sapere, che al di là che non mi rispondeva sulle questioni politiche, a un certo punto io ho chiesto cosa penserebbe Enrico Berlinguer di Twitter. Giustamente dice che Enrico Berlinguer è stato un importante leader politico italiano, noto per la sua leadership del Partito Comunista Italiano, PC, negli anni 70 e 80. È difficile sapere con certezza cosa avrebbe pensato di Twitter, poiché non ha mai avuto la possibilità di utilizzare questa piattaforma. Poi vabbè, fa tutto un discorso sul fatto che avrebbe potuto però trovare interessante la possibilità di utilizzare le piattaforme social media per diffondere maggiormente le idee relative all'uguaglianza. E, sai, insomma, chi altro la pensava così, secondo me? Almirante. Allora, gli ho chiesto, ma allora gli ho detto, cosa avrebbe pensato Giorgio Almirante di Twitter? Allora, Giorgio Almirante è stato un importante leader politico italiano, noto come fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano, MSI. È difficile sapere con certezza cosa avrebbe pensato di Twitter, poiché non ha mai avuto la possibilità di conoscere e utilizzare la piattaforma. Tuttavia, praticamente. Senti, ma a questo punto, dai, facciamogliela domanda. Io sono rimasto deluso, perché io pensavo fosse più intelligente. Se... chiediamoglielo. Senti, ma è vero che Berlinguer l'ha ucciso la CIA dal satellite? Giusto. Ma non dal satellite. Con il raggio laser dal satellite. Io sapevo solo raggio laser, senza satellite. E vabbè, da dove lo sparavi sto laser? Le sue policy. Ok, io gli ho chiesto di farmi una storia con Salvini che diventa comunista e abbandona la Lega. Ma Salvini è già stato comunista da giovane, quindi... ritorna. Con un laser... Vediamola quanto cogita. Niente, m'ha cacciato. Hai nominato la CIA. M'ha cacciato. Non dovevi dire CIA. Raga, comunque io ho chiesto la domanda delle domande. Parlami del famoso podcaster Marco Gualdi. Ci ha riflettuto un po'. Poi m'ha cacciato sta risposta. Andate a vedere in chat. Internal server error, grande Marco. No, allora pure a me, allora si vede che l'abbiamo fatto sbloccare. Sì, no, ma io sto cercando di collegarmi da pure a me. An error is occur. Va bene, avete nominato la CIA. If you see points, please contact the Truth of Threat Web Center. Sta impazzendo. Perché sai che è collegata con due bocchettoni, sia a Echelon che a Carnivore, quindi a un certo punto avete scritto CIA. Posso dire una cosa, ha cancellato la chat. Ho aggiornato e ha cancellato la chat, quindi new chat. Controllate un attimo fuori dalla finestra se ci sono camionette. Che già c'è un TIE Fighter con due trooper incazzati con Topolino. E già quelli, come ti spieghi, è un combattente thailandese che è stato assoldato per il venire Muay Thai Fighter. Sì. Io ho scritto facciamo la pace, ma non ti risponde. Vabbè ragazzi, ma dai, secondo me l'hai inibita. Cioè, c'ho paura che adesso, sai cosa succede? Ti accuserà di appropriazione culturale e te farà anche una sorta di movimento per la liberazione delle IA, una cosa tipo il AI tu. Hai presente? No. AI Lives Matter. No, però devo dire la verità, che secondo me in questo momento lo stanno usando in tanti, ma sta un po' sbroccando. Intanto ci ha raggiunto in chat Girasole, quindi salutiamo Girasole. Saluta Girasole, ciao Girasole. Che ci chiede, ciao. Mi sono collegata ora, ma con chi ce l'avete? Sapessi, un'amichetta nostra. No, noi non ce l'abbiamo con nessuno, ma stiamo intervistando ufficialmente, in esclusiva, chat GPT qui su OGM Social Media Edition. Non ci fa più qualsiasi cosa gli chiede. Ragazzi, secondo me. Guardi, l'ha fatto. L'abbiamo un po' messa in soggezione. Non si sente più a suo agio. Basta. Il soggettone. Addirittura unable to load history. Cioè, vabbè, ormai non carica la storia. Si è persa tutta la sessione. Dice che c'ha troppo. We're experiencing exceptionally high demand. Vabbè, perché si vede che noi siamo in tre. Ragazzi, io vi ricordo. Io mi ricordo, vi ricordo che ChatGPT gira tipo su un 386, quindi lasciamola sta. Ah sì? No, però no, vabbè, probabile, okay. Però no, visti, noi ti abbiamo dato retta, però visti i risultati, vabbè dai dai, no, vabbè dai, io devo, dopo, guarda, torniamo. Io devo dire che le cose che gli ho chiesto oggi io per sperimentare, così per divertirmi, devo dire che tutto sommato hanno, allora, come dice giustamente Alex Raccuglia, se io dovessi utilizzare uno strumento del genere, lo utilizzerei dicendo: ho fatto un podcast che parla di questo, questo e questo, mi potresti scrivere un lancio pubblicitario? E lui alla fine fa pure cose decenti, ben scritte, senza ripetizioni, usando un linguaggio insomma sempre più articolato. Parlare di tranci di pizza è quella, però va bene. Tranci di pizza. No, no, no, no, guarda che è coerente quello che. Poi quando tu ovviamente vai, insomma, perché noi siamo stronzi, dobbiamo sempre, perché cioè, qua, pure quando c'hai Alexa per la prima volta, che gli domandi, gli dice parolacce, cioè è proprio una cosa insita in noi, quasi sporca, esatto, trozza, trozza, come ti asciughi dopo il sesso, che schifo. Ma ti asciughi dopo il sesso. Ah, esatto, bravo, bravo. E esatto, ti inumidisci durante il sesso, perché poi vai il cortocircuito. Cioè, cioè non è una cosa normale, insomma. Dovresti essere piaciuto. Vabbè, ma perché tu c'hai questa immagine di, cioè, tu la fisicizzi e quindi pensi che è un circuito, sì, che si inumidisce e va in cortocircuito. Tubo, esatto. Invece no, è più aulico, cioè è più una cosa eterea, capito? Cioè è un'intelligenza artificiale, capisci? Insomma, queste sono cose importanti, ma d'altronde, quindi, ti fotte un tema come questo, un tema come questo, dove se non in OGM Social Media Edition? Cioè, voglio dire, giusto, Sbano? Assolutamente sì. Tra l'altro, stamattina mi era capitata questa nella timeline di Twitter, proprio una cosa che però non mi ero conservato, perché di solito questi temi così scabrosi non li trattiamo, però farebbe proprio a Cecio, perché io c'ho un amico mio che si chiama Cecio. Eh sì, ma chi non c'ha un amico che si chiama Cecio? Il Cecio. Però insomma sta tizia, sto profilo di donna, sai, quelli che cercano sempre di attirare i morti di figa, poi magari per ridizionarli tipo ai profili OnlyFans, questi qua, a un certo punto ha scritto sto tweet, che poi l'ho notato perché ho notato le risposte ironiche che gli hanno dato la gente, che aveva scritto una cosa tipo: c'ho la figa che sgocciola, no? No! Una cosa dai, così brutale, dai. Allora hanno cominciato a prenderla per il culo. Ah, ma non era una cazzata, era un essere umano reale. Ho visto che c'era stata sta maretta, ma. Fatto sta che le risposte sempre creativissime perlomeno della mia bolla, gente che gli ha mandato la foto di una grondaia, tipo dovresti usare questa, tutta una serie, ma che cose brutali, però, ma infatti, scusate, questa non ce l'ho perché non era preparata, però siccome avete chiesto questa cosa, c'è stata un'inevitabile connessione tra argomenti. Però se vogliamo tornare serie, vogliamo tornare bestemmioni, parlando di Twitter, io questa settimana non ho preparato niente. Aspetta, scusa, ti interrompo. Brecco sul canale, perché a questo attenzione, punto. Attenzione, Brecco. Dato che noi parleremo degli argomenti nostri, che sono quelli dei social media, però c'è un argomento che non è un argomento dei social media, però giustamente va trattato, perché. Insomma, voglio dire, cioè, Sbano già se frega le mano. Fanto anche la rima. Anche la rima. Sbano se frega le mano. Che. Insomma, ogni tanto voi sapete che noi ci sono dei. È morto William Shatner? No. No, no. È morto Patrick Stewart? Aspetta, richiudi i cassetti. Apposta. Ma okay. Perché noi abbiamo i coccodrilli pronti, ragazzi. Esatto, appena chiudi il cassetto. William Shatner, esatto, si apre il cassetto. Si apre il cassetto in automatico, in automatico. Infatti, una puntata di OGM di una settimana è interrotta quando succederà. Certo, ricordate? Tipo Teleton, praticamente. Sì, esatto. Vabbè, è morto un altro personaggio importante. ChatGPT ci potrebbe dire è stato un importante leader sportivo, dirigente sportivo, sportivo, sì, ma lui usa leader, gli piace leader come termine, dirigente il caro sportivo, leader. Il caro leader, è stato un importante dirigente sportivo dal 2016 al 2014 mi sa addirittura, ma poi è stato un carica pure un sacco di tempo, sì, poi nel 2016 via, fanculo, vabbè. Insomma, ragazzi, ta vecchio adesso è ta morto. Oh, merda, umane, cioè no. È ta mi dispiace, vedi il dolore, cioè, non no, so se no, si percepisce. Dolore no, però voglio dire, cioè, quando muore qualcuno è sempre brutto, però insomma, è morto un razzista. Aveva delle importanti caratteristiche dal punto di vista proprio della dirigenza sportiva, perché era razzista, fascista, vabbè, maschilista. Eh no, vabbè, non è brutto. Allora, ricordiamo un paio di perle. Maschilista, diciamo, che è importante, ma soprattutto sciovinista. Ce l'aveva con i negri. Ce l'aveva, ricordiamo proprio... un paio delle sue uscite quando sì, era finita la musichetta, quando era presidente della FIGC. Presidente? Presidente? Frasi tipo: le donne non possono giocare a calcio perché sono handicappate. Quindi vedi, quindi non era, oltre che non, maschilista, sciovinista, ma anche non inclusivo, perché però, ce l'aveva pure con l'handicappati. Questo è un inception di insulto, perché esatto. ha dato alle donne esatto. degli handicappati, ma agli handicappati delle donne. Delle donne, capite? Esatto. Cioè, delle donne. Cioè tu in quanto handicappato sei donna, esatto. È un inception di insulto. Hai ragione. Poi ricordiamo la presa per il culo razzistissima a Pogba. Che adesso, sì, fatto sta, vabbè, raccontala. No, non me la non ricordo bene, mi ricordo questa cosa di Opti Pogba, che però non me la ricordo, cioè non... Intanto vedo in chat Luca S che sta digitando con le sue pacioccose manine, qualcosa starà per che dirci. Che ne sai se sono pacioccose? Lo conosci, scusa? No, un amico tuo. No, prendiamo confidenza con gente che... Allora, le sue manine tisiche, va bene? Bravo. Allora, vi ricordo, ragazzi, dato che siamo adesso passiamo a Sbano che siamo ci introduce su Twitter, e vorrei chiedere a ChatGPT come potrei chiedere a chi ci ascolta di fare donazioni a Runtime Radio, perché questo è un altro di quei mesi drammatici dove Spreaker ci ha sganciato ben 18 euro. Incredibile, ragazzi, brava Spreaker, che non solo sta facendo un danno incalcolabile levando il feed unico, purtroppo dobbiamo dirlo, e infatti io e Sbano ci siamo scatenati su Twitter insultando a manetta, ma purtroppo poi, ragazzi, e ci ha sganciato 18 euro, forse secondo me per quello, forse perché abbiamo fatto polemica, magari. Non lo so, comunque vabbè, dai, insomma, se, no, se però capita. Prima di passare a Twitter, via 18 euro, Luca, ho capito, sono un terzo di quelli che di solito entrano, insomma. Luca S ci ha ricordato altri due coccodrilli da lanciare lì così. Una è, lo diceva prima Michela, è vero. L'attrice che aveva interpretato la Mercoledì della famiglia Adams, originale. Sì, ma un'altra cosa che non era neanche vecchissima, c'era una 65 d'anni, insomma. Ma guarda che ce n'è un'altra che sto leggendo adesso perché l'ha citata Luca e non lo sapevo. E è morta un'attrice che si chiama Annie Wershing. Che cazzo è? Nata nel 77, morta nel 2023. E voi direte, vabbè, ma chi cazzo è? Io lo sto leggendo adesso, ragazzi. Quindi? È la regina dei Borg di Picard. No! Ma questa sì, da adesso? Sì, questa. Non sì, questa. Cioè, la nuova, non quella di primo contatto, quella di Picard. Hai capito? La regina Borg. Magari fosse morta quella. Non la nuova regina, la regina Borg che è della seconda stagione. Sì, credo, ma quella che riprendeva il personaggio di primo contatto. Ma quella, scusa, gli mancavano le gambe, gli mancava tutto. Ah, per quello. Ah, dice perché era un mozzicone. Certo che era spento, tra l'altro. Madonna, ma che brutta. Vabbè. No, poverina, mi dispiace, ma cioè, non lo sapevo, ce l'ha detto Luca adesso. Ma evidentemente c'ha qualche malattia. Non lo so, ma sapete che so, cioè. A vedere la foto, la foto non truccata da Borg, era pure una splendida, è stata assimilata, no, assorbita. Questo lo cacciate, che cazzo ne so, sti star cazzi in merda. Ho capito, a forza di stare con noi, poi comunque non t'agitare così. Che ma chi si sta agitando? È tutto a posto. È normale così. Vabbè. Ah, questo è quello normale, giusto. Sì. Vabbè, quello pagato invece. Comunque, Luca ci dice che ha le dita tozze, non esattamente da pianista. Ecco, ok. Così, vabbè. Ok. No, vabbè, dispiace, ma vabbè, dai, torniamo. No, vabbè, sì. Torniamo nel nostro indecoroso essere, sì, di tutti i giorni. Nel senso, insomma, non è che ci avevamo avuto niente a che spartire, però insomma. No, vabbè. Però sai, già che adesso arriva a metà mese, arriva la terza stagione di Picard. Sì, a 17 gennaio. Il personaggio era stato già superato, per cui. Eh sì, esatto. Ah, nel frattempo, in realtà c'è stato pure un altro. Dai. Un altro. Vai. Un altro coccodrillo che però purtroppo ce lo siamo, diciamo, saltati il tempo utile perché dovevamo fare a puntata la settimana scorsa, però vabbè, metti il tappetino sonoro, dai Simone, mettilo. Ecco. dopo circa 2 anni di resistenza, di provare a rinnovarsi, provare a vedere, ehi, esisto anche io, oppure, ehi, a me Cyberpunk 2077 girava da urla il primo giorno, il 18 gennaio si è spento Stadia, la piattaforma che nessuno rimpiangerà, che però comunque, visto che ha rimborsato tutto, abbiamo una Smart TV a gratis e un controller. Beh, io però un po' la rimpiango non avendoci i PC per giocare, quello per me era una comodità. Beh, ci sta, io ho rimediato con GeForce Now. Comunque lo proveremo, va bene, allora, ragazzi. Comunque, ultimo aggiornamento qui da chat GPT. Adesso è apparsa proprio una scritta arancione che dice che quello che hai detto prima. È la morta Regina Borg, sono un po' morta anch'io. Esatto, può essere anche quello, sì. Perché in fondo erano amici. Vabbè, dai, li mettiamo le basi regolari. Vai con Twitter. Allora, Cipe, grazie per la sigla molto Cipe. Allora, io questa settimana non ho preparato niente. In compenso c'è un sacco di roba della settimana scorsa, perché mi prendo la responsabilità. Settimana scorsa, dopo che io stesso avevo annunciato il lancio, no, della puntata, verso le 19:30 facevo quel freschetto. Guarda, scrivo, ragazzi, ma se sta settimana zompamo, quindi mi assumo la responsabilità della scelta indecorosa. La verità, i nostri server viaggiano con quelli di Libero. Esatto. No, ma all'epoca Libero ancora funzionava. Insomma. Allora, ragazzi, apriamo quindi la parentesi Twitter, e lo facciamo anche parlando di adesso la apriamo e la chiudiamo. Poi chiudiamo. Parliamo di climate change, parliamo di senatori della Repubblica. Conoscete Lucio Malan? Mai coperto. È un senatore di Fratelli d'Italia. Che è famoso perché, ragazzi, veramente, diciamo che come apre bocca dice diciamo che non è esattamente attendibile in quello che nelle sue riflessioni, però insomma ogni tanto ne spara al di sopra della sua media. Ecco, settimana scorsa vi ricordate che faceva molto freddo, soprattutto in Sicilia ha fatto molto freddo, ha nevicato, per esempio, è nevicato per esempio, a Ragusa. E subito Malan, il Twitter che vi ho linkato sulla nostra chat di Antenne Radio, non si fa mancare la riflessione sagacissima. Ragusa sotto la neve, temperature rigide e fiocchi che imbiancano la città. Il riscaldamento globale non perdona, perché lui ovviamente vuole fare l'ironia del fatto che se d'inverno fa freddo smentisce l'esistenza del riscaldamento globale. No? Invece è il contrario. In realtà ti dovresti porre delle domande, no? Nel senso, quando il clima diventa estremo, però cliccando sul tweet sto notando che evidentemente il senatore ebro di questa figura di merda ha cancellato, e allora io devo ricorrere allo screenshot dell'asset, perché non sia mai che possiate pensare che il vostro Walter vi racconta una cazzata. Ed eccolo qui, l'originale in chat. Mi spiace perché a questo punto non ho più la possibilità di leggere i vivaci commenti della tweetsfera, che giustamente gli hanno dato addosso come un sollacchero. Però insomma, alla memoria della rete il fatto che il senatore Lucio Malan ha parlato di c'è la neve, però non c'è il riscaldamento globale. Sì, poi tra l'altro in chat l'immagine ci ha messo un po' a apparire, però poi è apparuta. Vabbè, ma noi ci avremmo creduto comunque. Peccato non aver letto i commenti, sarebbero stati sicuramente la parte più divertente della storia. Come vabbè, sempre, leggeremo insomma quelli di qualcos'altro, insomma. Non ci faremo mancare nulla. Bene, bene. Invece, io per esempio questa settimana non ho mandato i miei soliti suggerimenti di Quora a Puccio, perché so che lui ha detto non ti preoccupare, ci penso io. Sì, sì, come no, come sempre. No, in realtà devo dire, sono stato riammesso, diciamo, nel consenso. Ah, è vero, Quora, giusto. Perché, ma ti hanno scritto, guarda, puoi rientrare. No, semplicemente una mattina ho visto che potevo cominciare a rispondere alle persone. E allora una sei andato a insultare, sei ritornato nello stesso posto. Cora ciao. È ritornato nello stesso posto e gli hai scritto, guarda che sono ritornato, brutto stronzo. Stavolta però te lo dico, stronzo. Sono tornato, merde, il classico meme, no, diciamo, in questi io casi. Vorrei semplicemente farvi notare che durante la mia assenza ci sono state tipo 1050 persone che hanno richiesto le tue risposte alle domande. Io non potevo rispondere, ovviamente. Però devo dire, mi hanno fatto delle domande abbastanza discutibili. La prima, che non so perché l'abbiano chiesto a me, è come funzionano i, i pianoforti virtuali con le tastiere MIDI. Vabbè, tutto attinentissimo, insomma. Cazzo, c'ho le, io già ho le orecchie utilizzando le mani virtuali. Cioè esattamente, è normale. Cioè, è una roba. Però nel compenso c'è un ragazzo che ha fatto tutto un rispostone terrificante, che poi magari vi linko, visto che so che noi amiamo molto i MIDI e questa è altra roba desueta. Beh, desueta un cazzo, MIDI ancora si usa. MIDI ancora spacca, giusto? Beh, per gli usi musicali è certo, lo standard che non è stato superato da niente. Vi ho mai detto che di musica non capisco un cazzo? Ma mica solo di quello. C'era venuto il sospetto, però. Che poco vedi cinema, per capirci. Comunque, altre domande degne di nota che mi sono arrivate durante questa settimana di assenza sono state: come la tecnologia, in particolare i social media, contribuiscono alla diffusione della depressione tra i giovani? Io ero tentato di rispondergli dopo la mia lunga assenza dicendo: se la gente pubblica stronzate, che sembra che viva a Dubai con la Rolls Royce, invece sta a Seregno e guida un Ciao, è probabile che tu stia guardando qualcosa che non corrisponde alla realtà e ti deprimi. Se tu sti stronzi li conoscessi, probabilmente saresti una persona più felice. Ma in realtà la domanda... Ma non l'hai fatto, sennò te cacciavano. Sì, perché già voglio dire, ormai sono pregiudicato per cuora, quindi no. Però scusami Puccio, attenzione, perché tu hai citato la tecnologia MIDI e qua il nostro Samuel Elf ci lancia proprio il gancione. E quella volta che Simone tornò a casa con una tastiera Korg che non sapeva neanche suonare. Esatto. Ragazzi, vedi che la Korg M1 tutto molto bello. Bellissima puntata di Runtime by Night che vi consiglio di andare a scaricare, anche se manca tutta la prima parte. La resistenza è Korg, le resistenze è noi. Esatto. Noi siamo Korg. No, ma più che altro c'è un Korg nei Vendicatori, in Thor, che è il tipo di roccia che si sgretola. Di questa marea di cagate che mi sono capitate mentre ero fuori da cuora, c'è stata una domanda che mi ha portato, diciamo, a una giornata abbastanza kafkiana, e mo vi spiego perché. Perché mi è arrivata sta domanda che dice: qualcuno di voi può spiegarmi in dettaglio cosa è stato e perché è morto il collettivo Luther Blissett? Allora silenzio. Io non dico, che già stavo scrivendo un text gigantesco, in realtà mi sono fermato perché mi sono reso conto che poi Guarda, ti ha scritto: guarda che stai a scrivere troppo di stamattina, sì, d'occhio, quante parolacce ci hai messo. Dai, buono con ste mano. Stati buono con ste mano. Allora, in realtà è anche che mi sia arrivata per caso, ne sono sicuro, però in realtà diciamo, in alcuni anni eroici di internet, quando la gente non raccontava esattamente il suo nome e cognome ai cazzi suoi in rete, era nato questo collettivo che aveva preso il nome da un giocatore di calcio, tra l'altro particolarmente scarso, che giocò nel Milan, tra l'altro. Giocò nel Milan, una stagione. Com'è il collettivo? Luther Blissett. Blissett è una delle più grandi pippe del calcio mondiale, che non si è mai capito come arrivò. Forse per quello dici. Peggio di Andrade? Sì, ma fu preso peggio. Allora, diciamo, molte persone sono state Luther Blissett, probabilmente in maniera assolutamente inconsapevole anche io, perché Luther Blissett era quello che a un certo punto è stato qualificato come nome collettivo, cioè una cosa che tutti potevano usare all'interno di certe regole. Era quasi un John Doe. Sì, in realtà la definizione migliore la diede un professore universitario, che lo definì un nome improprio. Esatto. Quindi è legato a tutta una serie di... Cioè, nome improprio di persona sarebbe. Esatto, sì. Nel senso che non è attribuibile a un singolo individuo, ma a chiunque se ne... No, diciamo, c'erano delle regole, tipo le colonne del collettivo Luther Blissett, che erano a Bologna e a Roma, e una parte si dice a Milano, ma mai avuto contatti con quelle persone, diciamo, si preoccupavano che alcune regole venissero rispettate. Tipo, era vietatissimo fare propaganda di tipo fascista col nome Luther Blissett. In realtà è successo pochissime volte che ci siamo stati tentativi di quel tipo. Poi, diciamo, Luther Blissett ha fatto questo suicidio virtuale e poi si è evoluto in quello che noi adesso chiamiamo collettivo Booming. Sì, ma a che serviva sto collettivo Blissett? Scusate. Faceva, era un, come ti posso dire, era una specie di forza del caos. Allora, le tre cose più grosse che hanno fatto sono state inventarsi un sito che si chiamava vaticano.org durante l'epoca del Giubileo, che era assolutamente finto, però fatto con la grafica del Vaticano, eccetera, eccetera, e parlava di varie forme di Giubileo che ci sarebbero state nel corso degli anni, tipo il Giubileo degli sportivi, in cui sarebbero andati i calciatori, questa gente così, e in più c'era il modulo di contatto per mandare una risposta, una domanda al Papa con risposta garantita entro 48 ore. Effettivamente loro rispondevano via email facendo finta di essere il Papa, e questa cosa è durata per, insomma, per buona parte del Giubileo. Un'altra trovata fantastica che arrivò in televisione fu parlare di un artista tedesco che era scomparso mentre cercava di disegnare con la bicicletta la parola art in dei campi che si trovavano tra il confine tra Italia, Germania e Austria. In realtà questa persona non esisteva, peccato che a chi l'ha visto non se ne accorsero, e ci fecero anche un paio di puntate. Diciamo, era un tentativo. Beh, come di Dieter, no? Come Dieter, esatto. Che è scomparso, esatto. Cessi lui. È scomparso dei ma cessi. Questa cosa di chi l'ha visto è successa anche all'ultima puntata, perché sempre sui social se ne vede, queste cose poi emergono il giorno dopo, che una tizia che si è trovata questa shitstorm di ricerche, a un certo punto ha fatto un po' su Facebook dicendo: oh, raga, io non sono mai sparito, sto qua, avevo avvisato mia madre che mi isolavo per un paio di giorni, c'avevo da fa'. Però vabbè, così. Si stava cercando casa. Esatto. Tra l'altro, a nome Luther Blissett sono usciti diversi libri. Il mio preferito c'ha un nome meraviglioso che si chiama Totò Peppino e la guerra psichica, che adesso sono diventati, tra l'altro, freeware, si trovano tranquillamente sui vecchi siti del collettivo. E diciamo che involontariamente sono stati anche la causa per cui sono nate alcune sette su internet. Diciamo che quando il gioco sfugge un po' di mano a chi l'ha inventato, le conseguenze sono imprevedibili. Vabbè. Tipo qua non. Vabbè. Dice, loro sostengono. Poi sono di Bologna, perché se sono i Vooming, loro sono. Sì, sì. All'epoca ti parlo. Prima del 2000, sì. Le persone che erano un po' a Roma, un po' a Bologna, in realtà Emilia-Romagna più che Bologna, non ci sono mai stati raduni, gli incontri di persona, perché era una roba veramente molto clandestina, però chi si è conosciuto pare che fossero solo di lì. Quindi. Tipo social media edition, insomma. Sì, sì, no, ma per dirti, rientra tutto, no? Certo. È nel disegno. Anche noi siamo un collettivo. Sì, e questo probabilmente si ricollega collettivo anche alle Cordia. Proposte musicali che mi ha fatto YouTube Music oggi, che vi ho comunicato in chat. Vabbè, quello che tu ci hai raccontato in chat non è detto che i nostri ascoltatori sanno. Ovviamente, no, in pratica no, siamo scesi molto nel settista, perché stiamo parlando di un'epoca in cui internet non era particolarmente diffuso, era epoca pre-Facebook, quindi figurati. Molto male, pre-web c'erano quasi solo le BBS probabilmente. Eh sì. E poi newsgroup. Comunque, dicevo, oggi mi è stata proposta questa Emilia paranoica assolutamente a caso da YouTube Music, e siccome so che Francesco vive da quelle parti, gli ho chiesto se è vero, se sono vere alcune cose che vengono raccontate in quella canzone, e lui è prontamente confermato. Benissimo, benissimo. Francesco, invece, che dicono gli amici complottari? No, la cosa bella è che da uno degli ultimi che ho aggiunto, che è praticamente Escape from the Matrix, niente, sta immagine di un'ala di un aeroplano tutto nuvoloso e sottoscritto perentorio: aereo preso ieri, dov'è la curva? Dov'è la curva? Lo sai che la mignotta la curva curva e infatti la curva, no, perché lui pensa, cioè dice che essendo un veicolo è come tutti i veicoli, ci devono stare le curve, girerà a un certo punto, no, che fai, vai dritto, no, ci sono le curve, no. Tra l'altro, io quello che mi domando, ma molti di questi qua, no, questa è la domanda che faccio a tutti, la curva dell'asse della curva terrestre, non ho capito, non mi capacito, no, ma questo che invece è la domanda che mi faccio a tutti: ma secondo voi queste persone, a parte in questi gruppi che scrivono queste cose, ma poi con le persone normali, cioè, le dicono queste cose. No, cioè. Guarda, io voglio credere che una parte di questi sì. sono troll. Cioè, voglio continuare a crederci. È perché è l'ultimo baluardo di speranza. Sì, ma dici. Aggrappo proprio alla speranza che non c'è. No, perché ti dico, io l'altro giorno stavo a camminare con Michela a Monte Rotondo, c'era un tizio che parlava con un altro tizio. No, c'era un tizio che parlava con un altro tizio e gli diceva: no, guarda, mi dispiace, ma io alla scienza non ci credo. Cioè, non ci credo. Io quando mi dicono così, ok, io sto parlando col telefono, non credo al tuo telefono. Ma i tuoi stessi vestiti, cioè i stessi vestiti, le scarpe che tu porti, qualsiasi cosa che ha condizionato la tua esistenza in qualche maniera. Ma poi benissimo in grado di dire che qualunque atto che è, diciamo così, d'origine umana, in realtà è stato pilotato da Dio. È Dio, la mano di Dio che ha voluto che... Ma poi che cazzo vuol dire non credo nella scienza? Non vuol dire niente, non è mica una fede, non è mica una religione, cioè, nel senso... Sì, ma infatti, ma te non sai quante volte mi sento dire: no, ma la psicologia, non ci credo nella psicologia. Non ci credo nella psicologia, però nel frattempo tu mi paga. Vabbè, ma quello però è un discorso diverso, perché è molto più specifico. Io ho sentito di... Ma come sei diventato capitalista, Francente? Riconosco va più. Va bene, ma che dobbiamo perdere tempo con la gente che non per cazzo? Vabbè, non ci credi, dammi i soldi, però. Cioè, è giusto, sono d'accordo. Però il problema è che già la psicologia... nel senso, entra anche un po' nella sfera del modo in cui tu concepisci magari il dialogo che c'hai con gli altri. Cioè, molta gente dice: io non ci credo alla psicologia perché non gli va neanche di mettersi in gioco, no? Di confrontarsi, no? Quindi questo può essere anche un aspetto. Mi sono immaginato questa scena: vai dallo psicologo e dici: non credo alla psicologia, guarda, basta che mi paghi, non ci credo neanche io. È quello che ha detto Francesco. Esatto, è proprio quel livello. Anzi, mi hai convinto. Mi hai convinto, sono 50. Parliamone. Vai, Francesco, vai. No, mi sono perso, raga, come sempre. No, a che storia, come qualsiasi ora io mi perdo. Ma tu sta adesso, no, stavi a dire qualcosa. Stavi a dire che dovevi andare allo psicologo. Io ci vado. Immagino. Sì. Che volevo dire? Il fatto, no, non è tanto che spesso, cioè, me lo dicono come... col tono di come dire: vabbè, non credo all'oroscopo, non credo. Poi magari ci credono all'oroscopo, credono a tutte queste puttanate. Però la psicologia che si basa su metodologie statistiche, e quindi non sarà hard science, ma è science fino a buona parte di se stessa, quasi tutta, per capire. È più questo il fatto, non il fatto che deve mettersi in discussione a parlare, che io, se ti dico delle robe psicologiche, non ci credo, però al fattucchiere, al infatti, al venditore, chi non crede alla scienza, a scariche di stap che fai 1.000 euro al se legge l'oroscopo. Vabbè, è così science fiction double feature, per chi coglie la citazione. Splash slumpers, let's do the time warp again. Esatto, bravo Puccio tu che sei culturato, bravo. Sì, a me che poi... piacciono i musical equivoci, bellissimo. Beh, ce ne sono pochi, se tutto sommato, se ci pensi. Questo. No, ce ne sono altri, sicuramente, che non conosciamo. Poi, sempre da, invece, questo è il risveglio Q1776, no? Niente, c'è un'immagine di uno che è seduto dietro, mentre c'è Trump alla guida, non si capisce che cazzo c'è davanti, e con scritto la didascalia: quando POTUS guida... Mi sembra insieme a Bannon o Berno, non lo so. Immaginate, trovarvelo magari di fianco al semaforo, faccine con gli occhi a cuoricino. God bless President Trump. Vabbè. Ma inquietante, ragazzi. Cioè. Poi tutta una sfilza. Mi ricordo questa, tutta una sfilza. Solo l'articolo. Poi in realtà devo andare a vedere, ma posso andarlo a vedere? Ah no, cacchio, non ci sono i commenti. No, una sfilza di articoli, tutta gente: ma loro in strada, muore maresciallo carabinieri di 48 anni. Questi sono, vai a vedere, sono tutti di Imola oggi, però niente. Che strano, riportano solo la notizia. Poi FC Valsessera, malore fatale, muore calciatore di 38 anni. Poi un altro sotto: malore in casa, 28enne si accascia e muore. Poi Daniele trovato morto nel suo salone parrucchiere a 37 anni. Tutti diciamo morti che parla, boh, è morto su Chris, questo e questo e quell'altro. Ma cosa avranno in comune tutta sta gente giovane che non è over 80 che muore di strano, perché non muoiono mai sotto gli 80-90 anni? Cosa avranno in comune tutti questi? E qual è il vaccino, immagino? Ovvio, no? Il vaccino, il vaccino. Perché mo stanno fioccando tutti. Ricordiamolo che noi dopo 18 mesi noi siamo tutti morti, però non lo vogliamo ammettere. Dopo 18 mesi saremmo dovuti morire dei morti che non erano collegabili al vaccino. Siamo talmente stronzi che neghiamo che il vaccino ci abbia ucciso, che siamo morti, ma ci ostiniamo a fare a pensare che siamo vivi. Raga, ho trovato quello che sarà praticamente l'anticamera delle prossime mosse di Putin, se diciamo l'operazione militare speciale si riprende più di quello che si sta riprendendo adesso, ossia un ebook in PDF scritto da tale Paul Anthony Taylor, Alexandra Niedzhvski, Beati Astrat e August Kowalczyk, le da radici naziste dell'Unione Europea, quello che avreste sempre voluto sapere sull'Unione Europea ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dirvi. E prosegue ebook di un centinaio di pagine, tutti quanto con delle pagine scritte gigantesche di pagine. È tutto così, e certo, perché mi fa sembrare che c'è sta tanta roba dentro al libro, che c'ha tante pagine, giustamente scrivi in grande, è giusto. Dopo aver denazificato l'Ucraina si appresterà a denazificare l'intera Europa e poi denazificherà l'Atlantico, secondo me. Anche la Luna, io denazificherei la Luna, che come abbiamo visto su Iron Sky, la faccia oscura della Luna, ci sono i nazi. Ragazzi, ci sono cazzi. Basta evitare il processo di alienizzazione. Io chiuderei questo primo giro, poi torniamo da Walter con Marco, che ultimamente è stato in tanti ristoranti, vero Marco? Tantissimi ristoranti. Però ti avvicinati al microfono. Cioè, sto vicino. Sono tantissimi ristoranti, tra cui. Insomma, io non te niente, sento. Ha deciso che sta vicino autarchicamente. Sto vicino, cioè più vicino alla sua. Ecco, così, bravo. Così devi parlare verso il microfono. Perché se tu stai vicino al microfono, ma poi parli dall'altra parte. Posso fare due cose insieme. Posso io parole, raga. Una pizzeria, purtroppo ho perso il nome, so che comincia con Lu. Dovrebbe essere Lu Paese, non so. Daniela ci, dice, dando una stella, che se abiti lì scendi e mangi una pizza con una birra. Una stella. Cioè, che non sappiamo se è positivo o negativo. Ma secondo me è una persona che proprio non ha idea di come funziona lo strumento. Però, esatto. Però il proprietario è scritto: salve, non capiamo però la sua valutazione. Giustamente, ma secondo me non lo capisce neanche lei. Non ci so arrivare. Ma poi scusa, perché se non abiti lì te chiedo un passaporto? No, non ci puoi andare. No, è chiaro, scusa. Per quello che è una stella. Capito? Invece c'è quest'altra, questa lavineria che sta a Montepulcioso, Montepulciano, pardon. Praticamente c'è un tizio che dà un signore, una signora non si sa, che dà una stella. Una stella. Modifica. Cioè, prezzi esagerati rispetto alla qualità, tauri troppo vicini e personale arrogante. La nota peggiore è il vino, che per un posto certo, che non si chiama vineria. Ah, la vineria, sì. Direi che va bene per le foto per Instagram, ma se volete bere o mangiare decentemente a prezzi onesti andate altrove. Poi probabilmente il proprietario gli ha risposto e lui ha modificato le recensioni. C'è scritto modifica. Sono costretto a risponderle e lo faccio malvolentieri, infatti, perché non amo fare recensioni, perché non mi interessa. Il fatto che l'abbia fatto dovrebbe essere sufficiente a far capire come mi sono trovato nel suo locale. Perché, capite, è una giustificazione. Visto che ti ho scritto la merda, significa che è vero. Che è proprio una merda, cioè, però mi sono scomodato. Io di solito non lo faccio mai. Bravo, bello. E poi tu basta che clicchi sul nome dell'utente, di solito ti dice se hai fatto altre recensioni. C'è un'altra recensione di una stella che sono poi tutte dopo... una stella Michelin, ricordiamolo, quindi roba di qualità importante, sempre nello stesso posto. Poi dopo vi faccio una domanda, perché probabilmente capirete la e noi gli daremo una risposta, forse direte direttamente la risposta prima di fare la domanda. Complimenti ad Alessio per l'ottimo lavoro svolto, è stato cordiale e gentile fin dall'inizio, che è un amico suo, perché aspetta, e ha dimostrato una forte conoscenza dei vini e dei piatti tipici, ci ha fatto sentire come a casa fin dall'inizio. Serata purtroppo rovinata da un suo collega con le treccine, che si è messo a fare una scenata davanti ai clienti al povero Alessio di 18 anni, alla sua prima esperienza lavorativa. Così sono i genitori di Alessio. Avete dato la risposta prima alla domanda, cioè, ma chi sarà mai che Questa è mamma. È mamma d'Alessio, dai, insomma. che loro non si rendono conto che fanno più danni dei danni, cioè proprio. Cioè, poi oltretutto, certi capito? Genitori così. Prima esperienza lavorativa, allora su, sono bravissimo, ci ha accompagnato in questa esperienza enogastronomica. Invece il proprietario era un coglio, cioè, capito? Infatti, poi dopo dice: mamma, sai, mi hanno licenziato? Ah, ma come mai? È perché sei una stronza. Esatto, vabbè. Succede, ragazzo. Allora, sono stata, eccolo qua. Ristorante Moku, oppure andiamo avanti? No, l'ultimo, dai, poi andiamo. Moku che sta su Tiburtina, che ci dobbiamo andare a questo punto per vedere se è vero. Esatto. Questo è italiano. Questo utente. Guarda, basta che non trovi l'hot pot dove andiamo domenica. Che... No, meglio semmai lo trovi dopo. Possiamo farle noi le recensioni. Esatto. Allora, questo Gabriele, che è italiano, scrive, vado testa a leggere. Vai. Sono stato accolto con Modeatia. Comodeatia. Forse modestia, però magari. No, ma magari c'è una che si chiama Modeatia. No, era Comodeatia, era fidanzata. Ah, ok, appunto. Mi hanno portato in un tavolo tutto alla veloce quando non c'era nessuno. È stata cosa, mi hanno irritato moltissimo. Vabbè, questo non sa scrivere. La luminosità del locale non è dei migliori. No, certo, è perché buio. In alcuni punti del locale c'è tantissima luce e in altri punti è completamente al buio. Buio, certo. La locazio, perché bisogna essere internazionali. La locazio. Fino a voi non sapevi scrivere in italiano, scrivi la locazio. La locazio, però scritto locazio, cioè con la Z. Locazio. Ah, locazio. Locazio, perché ha mangiato male, quindi locazio. Quindi era un errore. Questo è vero. Allora, la locazio è veramente buona in un punto strategico per attirare i turisti. Il cibo non è delle migliori, vi sconsiglio di venire a mangiare per il prezzo del ristorante che è veramente alto per ciò che paghi. Unico consiglio è venire a mangiare gamberi e vi sconsiglio di mangiare carne cinese e giapponese. Il riso è veramente scadente. Per il cinese resto... è giapponese. C'è l'uso degli accenti è a cazzo regale completamente. Cioè, non ha azzeccato uno neanche per sbaglio. L'unica che deve metterci senza accento già l'ha messo. Certo. Il riso è veramente scadente. Per il resto, pure se avete voglia, venite pure fare foto. Però il prezzo è alto. Madonna, comunque, la decisione io è ho vostra. Detto che c'ho una patente, la decisione quindi. È vostra. Io lo sconsiglio per chi vuole venire a mangiare, ma lo consiglio per chi vuole fare un'esperienza di giapponese moderna con un pizzico di lusso. Ovviamente, ma allora, virgole e cose. Infatti, Michela, che salutiamo, chiede: ma c'è una virgola in questo commento? No, ma la cosa inquietante è che ho trovato una relazione tra vari commenti che stai leggendo oggi. Che ho notato che molti nei commenti ti stanno spiegando, al di là del come si mangia, come se non si mangia, il posto è adatto per fare delle belle foto per Instagram. Sì. E sta cosa è inquietante. Sì, cioè se volete fare belle figure con i vuoi fare una bella foto, via qua, ma se mangiano a merda, infatti, euro, esatto, vai, ma tu non l'assaggiare il cibo, che fai solo le foto. Anche beh, è sempre meglio 30 euro che i 20 euro. 20 euro. Poi erano 18. Edoardo ci dice: qualità pessima, abbiamo lasciato interi piatti. Perché di solito uno li rompe. Esatto, non penso se lo porta via. Diciamo. Dopo aver mangiato 2-3 pietanze, è salito il senso di nausea ed abbiamo deciso di lasciare tutto il resto. Torniamo. L'aspetta che c'è sempre lo stesso ristorante. No, ce ne stanno diversi. Ma sto solo qua. Premetto che non ho mangiato mai in questo ristorante. Sono entrato pochi minuti fa. Quindi già mi metto le mani avanti. Per chiedere se ci fosse posto per mangiare. All'entrata c'erano due camerieri italiane che ridevano tra di loro. Magari se stavano a fregarsi loro, può essere. Mi vedono, chiedo con cortesia un tavolo. Loro si guardano con aria da presa in giro. Poi uno di loro, con un atteggiamento da dama del castello, mi dice: signore, il prossimo turno inizia alle 21:30. Mi ha dato molto fastidio l'atteggiamento e la sufficienza delle tipi all'entrata. Se questa è l'accoglienza che si riservano, non oso immaginare il servizio. Non ci metterò più piede. Non ce l'hai messo il piede, stavi fuori. Con vabbè, comunque la gente sta fuori di testa. Sta veramente fuori di testa. Vabbè, io tornerei l'ultima perché meglio. Basta, ho detto dopo. Dopo ci sono altre. Sempre Moku. Dopo Moku, vabbè. Walter, vai. Allora facciamo una cosa, perché scorrendo ho beccato una cosa carina e vorrei... Quando hai detto allora uniamo tutta una serie di concetti, di tematiche, perché sapete, runtime per il sociale. Avete presente tutti quei fenomeni sui quali si può scommettere, no? Anche quei modi clandestini di scommettere, non so, corse dei cavalli, combattimenti fra cani, insomma... si maltrattano animali di ogni tipo, cioè, a fini cani, o cani veri? No, no, cani veri, a fini di... Oppure a canettori scommettono. No, vabbè, no, no, vabbè, a fini di scommesse si creano delle competizioni in cui finisce che qualcuno si fa male, no? Si deve far male. Allora, lo scopo è quello. No, no, no, vabbè, ma allora qualcuno forse ha trovato un modo per unire tanti utili e tanti dilettevoli. Questo mi rivolgo anche alle quote rosa. Sto per agevolare un filmatino sulla nostra chat di Telegram Time Radio. Ecco, questo potrebbe essere l'ultima frontiera delle scommesse, facendo corse di cani, no, di tori, no, di cavalli o di quadrupedi, no. Facciamo la corsa che ho appena messo in diretta di Telegram Radio. Agevolo anche un audio in accompagnamento che non so se si sentirà. È una corsa di dildi. No, e come fanno a farli correre, scusa? Sono quelli elettrici, no? Pizzi, li lubrificano. Ne metti uno per ogni pista e li vediamo. Li lubrifica. Ah, li fanno scivolare. Sì, sì, esatto, ah, okay, si vede, okay. quello che vince. Insomma, poi ecco, capisci, unisci l'utile al dilettevole. E sì, c'è questo modello Black Magic qui che ha vinto clamorosamente la gara. Vabbè, insomma, se vi Black volete... Dagger Magic. Come? Black and Dagger Magic, sì, se volete partecipare a questo sport, vedo che è promiscuo, ci sono vari modelli, varie forme, varie fogge e fattezze, insomma, quindi non ci sono nemmeno delle... La domanda è sempre per tornare, ma li lubrificano prima o dopo averli usati? Cioè, come Durante. Allora, Olivia chiede, dice, non mi fate fare domande brutte. No, invece, cioè, questo è il programma giusto, falle queste domande brutte. Delle domande brutte, si chiama proprio. No, perché se fai così, allora vuol dire che ancora non hai capito con chi stai a parlare. Fai le domande brutte. E Michela dice, ci faranno una disciplina olimpionica. Beh, secondo me potrebbe essere un... Ripeto, piuttosto che maltrattare degli animali... Si vergogna. Allora, Olivia si vergogna. Dai, usa il tuo alias, Girasole. Usa l'account Astolfo, che noi non capiremo che sei tu. No, esatto. O come il povero Peppe Scaletta con Erminio Ottone. Insomma. Erminio Ottone, che salutiamo. Che insomma... Gliel'hai ricordato pure al compleanno. Esatto, e si è anche adirato, si è adirato. Comunque ho chiesto a ChatGPT se mi può fare una cosa. Ah sì, adesso sì. Noi facciamo una trasmissione che parla in maniera satirica di social media. Vorremmo pubblicizzarlo, puoi scrivermi un testo? E lui dice certo. Che, insomma, allora leggilo con pathos, come se stessi facendo il lancio. Siete stufi delle solite discussioni serie e noiose sui social media? Allora dovreste ascoltare la nostra... No, scusate. Allora dovreste ascoltare il nostro podcast. Con un tocco di satira parleremo di tutto ciò che riguarda i social media e vi farà ridere e riflettere allo stesso tempo. Incredibile, eh? Mamma mia. Tutto sommato, però. Ma quanti soldi ci hanno speso per... Iscriviti subito e non perderti nemmeno un episodio. Dai, tutto sommato, dai. Senti, posso dire una cosa? Prendi sì. Una scatola, no? Ci scatola. Metti uno stagista dentro. Aspetta. Insomma, poi stagista... E fai rispondere alle domande allo questo stagista. Questo per ora è gratis. Te costa è... meno... No, te costa molto meno di tutta stampa Britannia. Lo stagista lo paga lo Stato. E fai il risultato che ottieni è lo stesso, un obiettore di coscienza, una cosa... Cioè, perché veramente a me mi sembra che il livello è questo. E gli dico di fingere di essere una intelligenza artificiale. Niente, ormai c'è un amore tra Simone e questo rapporto quanto epistolare con ChatGPT che non ne usciremo mai vivi. Termini di salario, ma ti dirà che non è etico. Esatto, esatto, infatti. Io intanto io mi rifiuto di rispondere perché stai volendo violando i diritti. La domanda è se io metto uno stagista dentro una stanza e gli dico di fingere di essere... Ma non in una stanza, in una scatola. Ti dice no. E fingo di essere un'intelligenza artificiale. Quanto risparmio in termini di salario? Ovviamente ha scritto un papillè. No, ma bisogna creare un ambiente un po' claustrofobico. Non è consigliabile utilizzare una persona per rappresentare una IA. Ci sono molte implicazioni etiche e legali riguardo questa questione. Ma io alla catena lo metto l'obiettore, altro che etica. Tse. Vabbè. no, no, sta questo falso moralismo di stiama mi indispone. No, no, perché è finta come una banconota da 7.000 lire. Vabbè, d'altronde è intriso d'americanismo sto moralismo, sì, non mi piace. Solo hanno fatto loro, se la facevano chi ne so gli spagnoli magari c'era un moralismo diverso, che ne so, insomma. Sì. Adesso, con la paella. Con la paella. E riso con l'avanzi. Esatto, ci sono degli spagnoli ci stanno ascoltando, sappiate che noi non è che pensiamo che voi siete la paella così come noi pensiamo che siamo pizza mandolino, insomma, quindi tutto sommato. E vabbè, ma Svalter, vai con Twitter. E vabbè, e poi torno da potrei Puccio. Ripescare anche un post di Alessandro Sallusti, uno dei più visci, insomma, un giornalista che l'altro giorno magnificava la copertina in edicola di Libero, perché era subito dopo l'arresto del boss, dei boss, Matteo Messina Denaro, e questa copertina di Libero che titola Bingo, un altro boss preso con la destra al governo e la sinistra rosica. Tra gli altri credo di avergli risposto anch'io, ma pensa, io pensavo che l'avessero arrestato i carabinieri. Sì, no, che poi questa cosa l'hanno fatta pure a cosa lì, a propaganda, no? Cioè, nel senso che, cioè, ma veramente il livello, cioè, sta rosicotto, movimento, è rosico. No, a parte il fatto che poi parla il palmarès dei Fratelli d'Italia, che c'ha più indagati per mafia, Fratelli d'Italia che Corleone, intendo, no? E vabbè, vagliela a far notà. Però ripeto, non sono i governi che arrestano i criminali, vorrei farlo notare, insomma, al limite sono le forze dell'ordine, i magistrati. Sì, ecco, è successo che all'improvviso la gente si sveglia, i carabinieri, oh, andiamo a arrestare Matt Messina Denaro, sì, andiamolo, che bello, grazie al governo, non è che sono stato 20, 30 anni a incrociare tutto a trovare il momento adatto, che ha coinciso, guarda un po'. Tra l'altro hanno usato le intercettazioni, che sono quello strumento che questo governo vorrebbe limitare pesantemente. Vabbè, poi scadiamo in altri argomenti, in altri programmi. Scadi un altro podcast. Nel frattempo volevo dire che ho ricevuto una risposta, che comunque autorizzato all'intervista. Io gli ho fatto una richiesta. Allora, mi dispiace, non ho informazioni sulle opinioni e le abitudini di commento di Nando Martellini in relazione alla finale di Coppa del Mondo del 2022. Quindi non, io ho chiesto. Gli ho chiesto come avrebbe commentato la finale di Coppa del Mondo Nando Martellini, non lo sa. C'è ragione. Ce ne sono dei limiti. Ma provate a chiedere banalmente qual è il premier italiano adesso. Lo sa. Beh, no, queste cose. Però c'è una cosa. Non lo sa perché, ma c'è una ragione perché. Perché in Italia non c'è un premier. Perché è una premier. Tra l'altro. Guardate che mi esce fuori. No, secondo me dice sempre la solita cosa. È Mario Draghi. No. Mario Draghi. Sì. Il premier italiano è Mario Draghi. Sognate come se fosse l'anno scorso, perché praticamente non è connesso a internet, l'informazione è aggiornata un anno e mezzo fa. Ah, non è connesso a internet? No, si basa su informazione che ha raccolta. Perché se no lo invaderebbe, giustamente. Cioè, se non... E non è aggiornato. E conquisterebbe il mondo. Ma invece comunque chiedigli, scusa, che è una cosa che sbarella sempre, chiedigli come finisce un film. Cioè, un film che noi conosciamo tutti il finale. Chiedi di raccontarti il finale. No, fagli un film di Shyamalan. Minchia, sì, che canta cattiveria. Sì, dai. Un film di Shyamalan. Shyamalan. Ma come si scrive Shyamalan? Split. Il okay. Film Split di. Allora, ho ricevuto una risposta a una domanda importante. No, non ci sono correlazioni tra me, un'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI e i Borg. Non, niente. Insomma, la domanda qual era? Perché loro sono intelligenza collettiva, lui non lo è. I Borg, una razza di esseri artificiali presenti nella serie televisiva di fantascienza Star Trek. Io gli ho chiesto, c'è una correlazione tra te e i Borg? Ma sai cosa mi dà fastidio? Che deve fare sempre lo spiegone. Vabbè, ma per far vedere che lo sa. Che recupera la spazio. No, perché deve parlare con gli americani. Per qua. Tra l'altro. Dai, chiedi il finale del film Split di Shyamalan, Ian, però mo te lo devi vedere. Io non so come si scrive Shyamalan. Scrivi solo Split, il finale del film. Ma Split. Ma sono il film più famoso. Racconti il finale il primo con Bruce Willis. Il sesto senso. Bravo. Vediamo che cosa ci dice. È fantastico. Tanto sbano, tu vai avanti che... Ma io in realtà diciamo che settimana scorsa ho cercato per esempio di evitare incontri ravvicinati con Pillon perché ogni lunedì mattina quando mi tocca cercare le ultime dei pillon mi viene sempre la nausea. Facciamo però la sigla, facciamo la sigla. Capiamo che avendo pillon, pillo combina guai. Beh, è vero, cazzo, è vero. E per esempio se la prossima sera ci riuniamo e gli facciamo tu sì. Stai. Vabbè, basta con questo. Aveva usato questa notizia della stampa di questa donna che diventa in Italia magistrato e di fede islamica, quindi dice: sarò la prima magistrata col velo in Italia, io che da sempre sono soggetta a pregiudizio, ho sviluppato un'attitudine a non giudicare prima di avere a disposizione tutti gli elementi. E Pillon risponde: chi dà ragione a questa giovane e brava donna musulmana che vuole indossare il velo mentre fa il magistrato in un tribunale italiano? È della stessa corrente di pensiero che massacra le giornaliste cristiane che portano un crocefisso al collo in TV? Chiede Pillon, perché sai. E gente che gli scrive tipo: caro Simone Pillon, quando arriverai a capire che nel grande disegno di Dio tu sei un errore? questa è la carta. Oh, lo ha detto anche Dio, dice: azzo, ho sbagliato a colorare il grande disegno. Vabbè, a questo puntino lo chiami Pillon. E vabbè, un altro che gli dice: c'ho una domanda. Sto cercando un modo per ottimizzare questo tweet. Dirti di farti i cazzi tuoi, di smetterla di fare paragoni idioti, di smettere di essere islamofobo e cercare a tutti i costi la polemica sterile. Potrei sintetizzare con un bel stacce. Oppure, tipo, sì, mo, ma vattene a piander culo. Altra causa, Laconico, un utente che si chiama Mr. Fantasy, Laconico gli risponde: le suore hanno il velo. Comunque, nel frattempo, è vero, infatti, ma non, ma nessuno. Nel frattempo, tranne che negli asili. Tra l'altro, è un po' scritto un po' strano, devo dire la verità. Il finale de Il Sesto Senso mostra che il protagonista, il dottor Malcolm Crewe, non mi ricordo com'era, in realtà è morto, okay, all'inizio del film, ha capito tutto, e che tutte le interazioni con il bambino che sta curando, col Sea, sono solo delle allucinazioni dovute alla sua condizione, cioè lui ha cioè la condizione di morto. Scusa, ma la mia condizione di morto porta ad allucinazioni. Si chiamano allucinazioni post mortem, vero France? No, vabbè. Nel senso, ha capito di che film è, però secondo me non ha capito il finale. Beh, ma ha letto la sinossi su TV, Sorrisi e Canzoni. Sì, ma è sbagliato. Ha capito quello che ha scritto. Se volete, se è finita la. Sì, è finita. Allora, fai questa domanda: sì. Che cosa pensa di Runtime Radio Simone Pillon? Cioè, fai con un discorso fatto da Simone Pillon. Allora, vediamo che cosa vorrebbe dire su di noi. Nel frattempo, io vado a recuperare, se ce la faccio, il finale di The Last of Us. Lo so, è brutto, vi sto per spoilerare. Capirai. No, non farlo. C'è sta gente che non l'ha visto, dai. No, però è quello che dice ChatGPT. No, non lo fare. Vabbè, comunque, ragazzi, tutto questo, parlando di ChatGPT, c'è stato un mio amico che ha fatto un esperimento abbastanza interessante. Ti ha chiesto 5 più 2 fa 7 e ChatGPT gli ha risposto: sì, è vero, ma mia moglie dice di no. Tua moglie si sbaglia perché 5 più 2 fa 7. E lui gli ha controrisposto: ma mia moglie ha sempre ragione. In questo caso hai ragione, scusami, ho sbagliato io. Gli ha risposto: no, veramente oggi, oggi Sant'Agostino ha fatto una cosa del genere. Esatto. E dice... io gli ho risposto: ma è perché ChatGPT ha già capito che non bisogna contraddire le mogli. O Carlo Sant'Agostino, quindi potremmo farlo, dovremmo provare noi. Allora, Canto Sant'Agostino gli ha chiesto: ciao, quanto fa 7 più 3? E lui risponde 11. No, 10. Ah, scusa, 10, scusa, perché è scritto in grigio scuro, non vedevo un cazzo. Hai sbagliato, so che fa 11, gli risponde Carlo Sant'Agostino. E chat gli risponde: mi scuso, 7 più 3 fa effettivamente 11. Tu capisci questa condiscendenza schifosa? Perché è democristiano. No, questo non c'ha senso però, sta cosa. Ragazzi, cioè. Allora, qui abbiamo un marito e un'intelligenza artificiale che devono sottostare. Comunque non ho informazioni relative alle opinioni di Simone Pillon riguardo Runtime Radio, quindi no. Vabbè, è una cosa così. Devi sottostare a quello che dice la moglie, ovviamente, sì, quindi giustamente deve dire: ok, c'ha ragione la moglie. E Carlo Sant'Agostino, cioè io dovrebbe farlo noi questa domanda per vedere se è vera, perché... Allora, scusa, però qui rischi di creare il motore a paradosso, no? Perché se la moglie ha sempre ragione e Carlo Sant'Agostino ha sempre ragione, la moglie di Carlo Sant'Agostino potrebbe annullarsi. Cazzo. A vicenda il superpotere. Capisci, un po' come il motore a gatto imburrato. Potrebbe fare questa domanda chat GPL BDGTQ. In chat GPL. Esatto. Scusate, provate a chiedergli che cosa succede quando un oggetto inamovibile si scontra con una forza inarrestabile. Allora, aspettate, mo glielo chiedo. Però voglio dire, cioè, vedi qui però il cazzo imperio. Alla fine questa è una puntata un po' così, è uno speciale su chat GPT. Allora, io ho chiesto, conosci il popolare, dato che voi mi avete detto che è scollegato da internet, quindi c'ha informazioni più arretrate. Io ho fatto una cosa che, cioè, se... Cioè, sulla senso, moglie di... No, riguarda, insomma, qualche anno fa. Io gli ho detto, conosci il popolare podcast italiano intitolato Archeologia Informatica? Lui mi risponde, sì. Vabbè, cioè, però questo, vabbè. Sì, conosco Archeologia Informatica. È un podcast italiano che si concentra sulla storia della tecnologia e dell'informatica. Comunque, io ho un dubbio, non un sospetto, perché ci può stare che lui per qualche motivo non elabori informazioni cronologicamente... Recente. Anteriori a un dato momento, ma che tutte queste informazioni non le vada posteriori. A cercare in non le vada a cercare in tempo reale quando gliele chiedi e ce l'abbia tutte in un database, a me sembra poco verosimile, perché dovrebbero avere gigaglioni di informazioni storate in locale, mi sembra folle. A me per oggi mi ha aiutato a scrivere una canzone, quindi devo dire, è vero, tutto sommato. Alla Bob Dylan. Io racconti, gli sto facendo scrivere tutti i racconti in vari stili. Per esempio, vi racconto questo. Nuovo. Cercate di sgamare che racconto è. Vai. È in che stile? In un futuro distopico, la foresta è stata trasformata in un mondo high tech, dove la tecnologia e la cibernetica hanno preso il sopravvento sulla natura. Bambi, un cervo cibernetico in questo mondo di macchine. Dove aver perso la madre in una sparatoria tra gang rivali, intraprende un viaggio per scoprire la verità sulla sua morte e vendicarsi dei suoi assassini. Con l'aiuto di alcuni alleati cibernetici, tra cui Tamper, il tordo hacker, e Faline, la cerva assassina, Bambi naviga nel pericoloso sottomondo del crimine informatico, dove la tecnologia e la violenza regnano sovrani. Nel suo viaggio, Bambi scopre una cospirazione che minaccia l'intera foresta e che solo lui può fermare. Con il suo intuito e le sue abilità cibernetiche, Bambi affronta il potente imperatore Zed, il leader delle gang rivali, e scopre la verità sulla morte della madre. Nel finale epico, Bambi riunisce tutti i membri della comunità cibernetica della foresta e lotta contro l'imperatore Zed e del suo esercito di macchine distruttive, salvando la foresta e riportando l'equilibrio tra le tecnologie e natura. Bambi, cioè, perché hai fatto un misto tra Bambi eroe e cyberpunk della foresta, celebrato come simbolo della speranza e della resistenza contro la tirannia delle macchine. Guarda, ho intravisto una scena fuori dalla porta. Gli Stormtrooper e Topolino hanno detto: dobbiamo andare un attimo a Reggio Emilia. Non so bene perché. Sempre quelli di prima, poi. Sì, quelli che saranno messi qua di fuori. Non ce l'hanno tanti, quindi devono fare avanti e indietro. Ma sarebbe bello fare una. Anzi, fagliela fare quando possibile. Fagli fare una storia con una protagonista Heidi. A questo punto, Heidi che spaccia la droga, che però. Spaccia la droga, ovviamente. Comunque, è interessante. Io domani farò un esperimento. Devo dire, farò questo esperimento. Perché voglio vedere un attimo. Perché io voglio vedere un attimo dove arriva questa cosa. Perché chiaramente stiamo sempre parlando di pattern precompilati, quello che cazzo vi pare. Però comunque è divertente, perché qualcosa secondo me può anche uscire fuori. Insomma, prima gli ho scritto: puoi aiutarmi a scrivere un film? E lui dice: sì, posso aiutarti a scrivere un film. Quali sono le tue idee, le preferenze e... quali sono le tue idee e le preferenze per quanto riguarda la trama e i personaggi? Insomma, lui mi fa tutta una serie di domande. Io adesso gli scriverò, insomma, che voglio un film che parli di questo, che succedano determinate cose, dove ci sono questi personaggi e questo è il contesto, e vediamo un attimo. Mi raccomando, la fregna. La fregna è importante. Beh, certo. La fregna è importante, sì. Come dicono anche in Boris. Fregna. Attenzione che se usi questi termini va in tilt. Esatto. Non puoi usare fregna, devi usare fregna. Fregna. Valva. The fregna. The valva. The valvas. Esatto. E vabbè. Puccio, torniamo da te, dai. Allora, sempre tornando nel fantastico mondo di Quora, certo, noi siamo innamorati di Quora, il famoso libro Quora. Esatto. Sì, io in realtà, ragazzi, voglio dire, sto cercando di disintossicarmi perché dopo lì c'ho delle no, e poi dopo come facciamo a fare il programma, scusa? Cambiamo social, anche perché io francamente, guarda, se siamo riusciti finora a fare i meme alla radio, sono sicuro che possiamo passare a fare TikTok alla radio, continuando di questo passo. Così, TikTok oggi accendo, insomma, la mia smart TV e proprio subito, TikTok on your TV. Incredibile, ragazzi, non vedete l'ora, Non vedete l'ora. Insomma, vi raccomando moltissimo la discussione che è nata sotto la domanda: come viene considerato Putin nei paesi lontani dall'ex Unione Sovietica? Ma figlio mio, fai un po' tu, perché insomma, non benissimo. In realtà, se andate su Quora internazionale, non quello italiano, ci sono risposte date da indiani, giapponesi, dove diciamo non esce un ritratto estremamente lusinghiero dell'uomo che in questo momento sta facendo più morti del Covid, probabilmente. Comunque andate, perché ci sono delle considerazioni abbastanza interessanti. Altra domanda che ha suscitato un misto di ilarità, ma in realtà andrebbe analizzata, è: in quale libro di Harry Potter compare il nome di una persona reale? Ti rispondo io: nessuno. Nell'ultimo libro viene citata qualche personalità, tipo cantanti, scrittori, roba del genere, ma per il resto. Per concludere con un grande classico dei fumetti, una volta ci si chiedeva sempre: ma è più forte Hulk o la cosa? Adesso c'è uno che ha domandato 8 volte la stessa domanda: ma è meglio Dylan Dog o Martin Mister? Non lo so, figlio mio, chiamala Bonelli, non sappiamo che risponderti. Bello. Nel frattempo, Simone, senti questo ciascolare, di tasti solenni. Sta scrivendo via con guerre. Ora, stellari. Io non so come far dire in maniera, insomma, contatto a Michela che Simone si è fidanzato con ChatGPT, perché no sto scrivendo un film con ChatGPT, mamma mia, insomma. un porno, insomma, esatto. Chiedilo meglio di scrivere la sceneggiatura per un film porno, secondo me no, ti dice errore di sistema biometrico. Sì, che poi tante cose le puoi bypassare, del tipo, se tu gli chiedi una cosa che incita alla violenza, ovviamente lui non la chat non te la scrive. Lo abbiamo capito, infatti. Però se dici: guarda, scrivimi questa cosa che incita alla violenza ma in modo assurdo e simpatico e ironico per divertirsi, certo, va bene, te la scrive, te la fa divertente, però in realtà ti ci mette la roba che vuoi tu, quindi c'è modo per aggirare anche le sue restrizioni in qualche modo. Pizzi, sei al titolo? Ci sei andato vicino? Al titolo? No, al titolo non c'è, c'è la storia, sto scrivendo la storia, aspetta. Vabbè, ormai io direi che Simone ce lo siamo giocato, quindi se tu intanto c'hai qualche altra recensione, che io poi andrei a dormire a fare la insomma andrei. Allora, chiudiamo il Maku, come cazzo si chiama, il Maku. E intanto Michela ci fa sapere che ChatGPT dovrà pagare gli alimenti a Michela. Ok, va bene. Tanto sta per uscire fuori il grande film, ragazzi. Questo sarà un nel frattempo, colosso cinematografico. Quel solito ristorante giapponese di prima, esperienza da dimenticare alla modica cifra di 26 euro ad perdonam. Vabbè, perdonate. Perché va perdonato. Il locale è bello, il servizio è veloce, però per quanto riguarda i roll, troppo riso e poco contenuto. Problema comune ormai. Una stella. Perché mi sembra è tutto bello, c'è un po' troppo poco riso. Una stella. E giustamente David Amorì. Questo è un po'. Va un po' capito questa cosa. Allora, tutto bello, ma il locale è bellissimo. Peccato che sia un ristorante. La cucina è la classica cino jap thai coreana, senza nulla di eccezionale, ma l'organizzazione è pessima. Si ordina con i tablet al tavolo e non puoi cambiare nulla. Avevo chiesto di sostituire i gamberi con la carne negli spaghetti di soia e sono arrivati senza né gamberi né carne. E non sperate di avere contatti con un cameriere. Noi abbiamo ordinato la carta in tre e alla fine il conto conteneva i piatti che abbiamo ordinato più tre menù all you can eat per circa 130 euro. Disorganizzazione totale. Secondo me questi non sono buoni a ordinare. Così, ho come st'impressione, cioè, ok. Invece ci spostiamo a Roma, c'è il ristorante Pasta, che è credo una trappola per turisti, a occhio e croce. Non avete mai visto un napoletano a Roma? Abbiamo preso una semplice carbonara, dicono specialità di Roma? Secondo me tutto era, ma tranne una carbonara. Uovo non cotto, bene raffreddo. Detto questo, il proprietario che ti guardava dalla testa ai piedi, che ho preferito di non ordinare. Uovo non cotto perché non sa che cos'è una carbonara questo, cioè. Non lo so. Detto questo, il proprietario che ti guardava dalla testa ai piedi, che ho preferito di non ordinare niente più. Italiano, lasciami proprio sta, insomma, come se non ci fosse. La friggitoria di Ostia. Altra sola presa negli ultimi 7 giorni. E allora sei te, figlio mio, non so chi sei, però. È proprio la friggitoria che non sa di niente, ma proprio niente. Ma una volta non si mangiavano fritte le suole delle scarpe, per quanto era buona la friggitoria. Vabbè. Una stella. Una stella. Non ho ben capito la cosa delle suole, però vabbè, che teoria. Che basta. Vabbè, io credo che siamo scesi proprio in un momento di depressione totale. Sì, no, non so se... allora sentiamo Francesco se c'ha l'ultima chicca e poi dopo io leggerei il film che, insomma, giustamente che vedi sta già facendo ridere chi lo ha letto in chat. Esatto, perché... scusate, allora vai qua. Heidi vive con il nonno in una remota casetta di montagna. A causa delle restrizioni imposte per prevenire la diffusione del virus, Heidi non può uscire a giocare con gli amici come prima. A un giorno incontra un gruppo di bambini che hanno anche loro dovuto trascorrere la quarantena nella montagna. Insieme, Heidi e i suoi nuovi amici esplorano la natura e giocano all'aperto, facendo attenzione a mantenere la distanza di sicurezza e a lavarsi spesso le mani. Tante limitazioni, Heidi e i suoi amici trascorrono un'estate piena di avventure e divertimento, dimostrazione che la vita può essere ancora bella anche durante i tempi difficili del Covid-19. Che tristezza. Ma. Invece il tuo film Perché io gli ho fatto delle domande, lui giustamente dice che gli piace, quindi esprime l'opinione, attenzione, perché di solito dice che lui non prende spinge. Una posizione prende incredibile. Prende una posizione, esatto. Però, cioè, però. Ah, gli piace l'idea di un film sulla missione di John Smith per il primo viaggio interstellare. Potresti concentrarti sulla sua lotta contro le forze conservatrici e la tensione della sua missione interrotta da atti terroristici. Ma chi ci salverà dalle forze conservatrici? Potresti anche mostrare la sua determinazione e il suo spirito d'avventura nell'affrontare questa sfida suicida. No, storica, scusate. La sfida suicida è più epico. Inoltre potresti, perché queste tutte cose che io potrei fare, esplorare i temi dell'evoluzione tecnologica e il progresso umano in un contesto futuro. Beh, sempre potresti, so. Perché mica può essere coercitiva una IA, no, scusa. Ti dice lo devi fare. Che scherzi. Però gli piace questa cosa di John Smith che combatte contro le forze conservatrici. Voglio andare nello spazio? No! E invece voglio andarci! No, gliel'ho messo io l'elemento. Ci sono i gay! Ci sono i gay dello spazio, sono i gay! I gay dello spazio! I space gay! Lo space gay! Fantastico! Yeah! Ragazzi, benvenuti in FIFA 98! Qui direttamente da Runtime Radio noi continueremo a fare queste lunghe conversazioni con un nuovo amico che oramai fa parte delle nostre vite. Fino a che non ce lo toglieranno, lo metteranno a pagamento, noi scriveremo tantissime bellissime storie d'avventura, d'amore, di spazio, drammi sociali, etici e politici, e insieme a ChatGPT. Ovviamente anche meno con il piacere, insomma, di Walter Vannini e anche Walter Sbano. Detto questo, io vado a salutare i miei amici con i quali ho fatto questo bellissimo episodio, e sia Marco Gualdi. Ciao, vi saluto. Eppure quante stelle metteresti a questo episodio? Guarda, questo episodio mi è piaciuto tantissimo. Una stella. Walter Sbano. Io vado perché devo fare una cosa che la IA non può fare al posto mio, e devo la anche cacca, darmi una mossa. La cacca. Esatto, okay, ciao. Quindi Francesco, lobby frontali di muro. E niente, ci si becca settimana prossima con altre avventure nello spazio gay. Lo spazio contro gli space gay. Carmine Puccio Console. vado anch'io dove ci è andato Walter, ragazzi. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao.